l'invito. No, più che altro ho visto come è stato organizzato il dibattito, ho assistito alla parte finale del seminario, la discussione che state facendo precedentemente. Mi sembra che, insomma, per fortuna posso dare per scontato molti passaggi che magari in varie assemblee e in altri incontri pubblici non do per scontato, perché conosco veramente poco la realtà di Podemos. Invece devo dire che, insomma, per fortuna possiamo dare per scontato varie cose. Allora, partiamo dal libro, nel senso che questo qui è Democrazia allo zero, questo testo di Pablo Iglesias, che in realtà è la traduzione in italiano di Disputare la democrazia, e il libro è un po' il manifesto teorico-politico di Podemos. È stato scritto innanzitutto prima della nascita del partito e quindi anche del boom dell'europeo. È estremamente interessante perché fa capire come la nascita di Podemos si debba leggere in una chiave che va al di fuori dei confini spagnoli. Nel senso che è chiaro che per la nascita della Spagna sia fondamentale il ruolo che hanno avuto gli Illuminados, il 15M, cioè Podemos è riuscita a far diventare strategia politica tutta quella rabbia sociale, quel grido di abbasta, quel grido di rottura che veniva dalle piazze sociali, dagli indignados, l'elemento sia centrale in Spagna. Ma allo stesso momento Iglesias fa un ragionamento più globale. Tutti i primi capitoli sono sulla crisi economica e quindi inizia a parlare dell'Europa, dei paradigmi delle politiche austerity e quello che hanno significato nella politica della Spagna, in Spagna. Democrazia anno zero, appunto, ma democrazia anno zero perché non è nella tesi di Pablo Iglesias che in questa fase politica la democrazia è quasi incompatibile sul come sta strutturata, ad esempio, l'Europa. Quindi parla moltissimo del libro, parla dell'Europa. Nella versione originale di Disputare la democrazia, la prefazione, non a caso, era stata scritta da Alexis Tsipras, proprio perché per quanto Podemos e Syriza siano due partiti molto differenti, Syriza ha una tradizione più classica, novecentesca, legata all'eurocomunismo, che ha messo insieme i partiti della sinistra ellenica, Syriza vuol dire coalizione della sinistra radicale, appunto, in greco, posto fine all'enorme condivisione di questa sinistra, Podemos è una roba, come sappiamo, come sapete, totalmente nuova, che invece ha rotto del tutto col Novecento, il senso del destra e sinistra. Podemos, Iglesias dice spesso, noi anche nel libro, noi per vincere dobbiamo evitare di fare tutto quello che ha fatto la sinistra del Novecento, la provocazione che fa, malgrado quindi le grosse differenze che sono palesi e evidenti tra Syriza e Podemos, fanno però fronte comune. Infatti sono alleate in Europa e sono tutte e due le due, cioè della sinistra rosso-verde a Bruxelles. Non è un caso che la campagna elettorale di Tsipras, tutte e due le volte, viste le elezioni recenti, si è chiusa con Pablo Iglesias sul palco. Non è un caso che questo libro avesse la prefazione appunto di Alexis Tsipras. Nella versione italiana abbiamo deciso insieme all'editore di togliere la prefazione di Tsipras, ma di fare un'intervista a Landini, che ci ha spiegato l'idea un po' di coalizione sociale, ha ragionato sulla la mancanza ormai sulla rappresentanza politica del lavoro, cioè come c'è una crisi da questo tipo di rappresentanza e disaffezione immensa sia sul terreno della politica, che porta poi a tassi di astensionismo altissimi. Ormai in Europa vota meno del 50%, vedremo a Roma le prossime elezioni comunali quante persone andranno a votare. Quindi c'è la disaffezione con fronte alla politica, ma attenzione, Gelandini, c'è una forte disaffezione anche sulla questione dei sindacati. Quindi o io provo a fare una battaglia di riforma del sindacato, il sindacato diventa sociale, ad esempio, inizia a intercettare anche le nuove figure emergenti, il lavoro autonomo, il lavoro indipendente, le partite IVA, inizia a mettere in piedi pratiche di mutualismo, mi racconta di intervista che gli ho fatto all'Andini, o inizia a essere anche questo il sindacato, oppure il sindacato è morto, come sono morti i partiti del Novecento. E lui su questo è molto netto, rompe anche diciamo, i partiti attuali che sono a sinistra del PD. Nell'intervista Landini dice stanno in una crisi irreversibile, chissà se riusciranno a ritornare invece diciamo su cifre, dice, ho paura che ormai rimarranno diciamo della marginalità politico almeno a livello elettorale, soprattutto su un terreno più resistenziale, 4-5%, se va bene, ma non hanno più diciamo, quell'aspirazione che mi dovrebbe avere, che hanno almeno in Europa, Sirenza, Podemos, quell'aspirazione di governo, quell'aspirazione di diventare maggioranza. Podemos, l'avete discusso credo prima, no? Cioè l'idea di provare a rappresentare la maggioranza sociale, la maggioria sociale, dice anche Iglesias nel libro in continuazione. Quindi rispetto alla democrazia abbiamo scelto con l'editore di togliere, anche perché viveva in una fase in cui Siriza, adesso la Siriza di governo, diciamo si fa sentire delle contraddizioni, delle difficoltà oggettive nel momento in cui ha accettato comunque di rimanere dentro la gabbia del memorandum, perché sappiamo che sto la punta dalla testa, non sa non aveva alternativa a quel tipo di accordo, o se ce l'aveva, ma quello chissà se esiste ormai il piano B, tanto dei cantoni se esiste o meno, ma insomma questo diciamo, è un tipo di discussione e non è questa la sede per affrontarla. Abbiamo deciso di togliere appunto la preparazione di Tsipras e fare la roba sulla Bibbia. Parla di Europa, ma parla anche proprio di crisi globale, e una prima analisi molto interessante che fa Iglesias nel libro dice che la crisi economica, i paradigmi dell'austerity nel 2008 in poi hanno aumentato la diseguaglianza sociale. Questo è il primo passaggio fondamentale per finire la crisi, nel senso che si è ampliata la forbice tra i redditi alti e i redditi medio e bassi. Quindi la crisi non è stata generalizzata, ma in realtà è stato quindi un progetto ben preciso di arricchimento, di concentramento di ricchezza e potere. Nel momento in cui aumentano disoccupazione, aumentano i tassi di morte neonatale, aumentano i tassi di povertà, ma sono anche gli ultimi dati, diciamo, della Caritas, da questo punto di vista, o anche l'Istat, cioè ti dicono come aumentano le famiglie in difficoltà economica, la disoccupazione giovanile, lo stesso aumento in Europa negli ultimi anni aumenta del 16% il consumo dei beni di lusso, cioè si vendono più Ferrari, per dire, si vendono più macchinoni, questo è far capire quindi come quindi come la diseguaglianza sociale sia un primo passaggio, un paradigma centrale. E lui da lì spiega il famoso concetto del 99% e 1%, che lui dice sì, va bene che è uno slogan, ma è uno slogan che poi, dati alla mano, come dimostrano anche le ultime ricerche fatte a Oxfam sulla diseguaglianza sociale, c'è realisticamente 32 persone, super paperoni, che detengono quanto 6 miliardi di persone del mondo. 32 super paperoni. Noi viviamo in questa situazione. Questa situazione in cui l'1% è quello che Iglesias chiama il partito Wall Street, che per lui è un'organizzazione internazionalista e leninista. Un'organizzazione internazionalista perché, partendo da Wall Street, a rappresentanza dei poteri forti, i poteri speculativi, le agenzie di rating, la finanza, i cosiddetti padroni, cioè quell'1% rappresenta questo, i politici corrotti, ecco cosa è, quindi la casta, questo 1% è proprio Wall Street, che è anche la casta, i suoi emissari. Ma questa analisi che è interessantissima nel discorso della perdita di sovranità popolare, cioè c'è un'organizzazione leninista, l'1%, l'Unione Mondiale, che ha i suoi emissari nei paesi nazionali. gli emissari quindi vengono gestiti all'alto, sono soltanto dei burattini messi là, che devono in maniera supina accettare i diktat che vengono dall'alto. Lui spiega come il Partito Popolare e il PSOE, rispettivamente, insomma, il centro-destra e il centro-sinistra, in Spagna, dalla Comune di Franco in poi, si siano alternati al potere, un meccanismo classico di alternanza tra due partiti, una logica di bipolarismo, si siano alternati al potere ma non facendo altro che accettare i diktat degli ultimi anni della troica, dei poteri forti, dei poteri speculativi, della finanza. Un elemento in cui è molto interessante mette insieme l'elemento, e noi a Roma lo vediamo bene con Marche Capitale, mette insieme l'elemento economico, quindi l'austerity, appunto i poteri forti, l'uguaglianza sociale, non a caso la distribuzione del reddito è un tema centrale, il programma di Podemos, il reddito, la cittadinanza, mette insieme l'elemento della crisi economica con l'elemento però della crisi morale e della corruzione. Cioè le politiche d'austerity hanno bisogno, quasi per andare avanti in questa fase, hanno bisogno anche dell'elemento, diciamo, di corruzione e di malaffare. Sono due elementi che vanno a braccetto. La corruzione per Iglesias è quasi un elemento endemico alla governance, e noi su Roma lo vediamo benissimo, è mafia capitale, infatti nei mesi scorsi valgono in Spagna ma da noi sono pari pari a livello di analisi politica. E quindi dice che noi dobbiamo provare a organizzare, come resistere e organizzare quel 99% per cacciare quell'1%, che appunto è il Partito Wall Street, che appunto la casta, che appunto i poteri forti, che appunto l'austerity. Questo, diciamo, è impostazione teorica. In questa impostazione teorica Iglesias fa un discorso anche interessante sulla questione della sovranità popolare, che è ad esempio una differenza molto evidente rispetto magari a Syriza, che invece non fa un discorso di sovranità, almeno inizialmente non aveva nel programma la questione della sovranità popolare, definendo sempre una cosa molto europeista, aveva quasi paura di toccare questo terreno con la sovranità popolare. Iglesias invece lo fa da subito perché, va detto, insomma, forse l'avete discusso prima, anche la tradizione culturale politica di Podemos non è figlia dell'eurocomunismo europeo come quella di Tsipras, ma è figlia appunto del cosiddetto giro alla schierda che sta avvenendo in Latin America negli ultimi 10 anni, cioè sul grande cambio che c'è stato anche di resistenza alle politiche del fondo monetario, del WTO, delle politiche dell'offensiva delle politiche delle multinazionali nordamericane in Latin America. Non è a caso che Iñigo Errejón, adesso che è diventato di fatto il braccio destro di Pablo Iglesias, ha preso il posto di quello che era prima Monedero, adesso ne si fa parte Monedero, l'hai discusso prima, immagino. No. Di questa parte no. No. Degli equilibri interni no. No, questo invece è interessante. Se volete magari un passaggio lo faccio, perché quel libro è il Deus Ex Machina di tutta la campagna mediatica di. E di Errejón è questo ragazzetto, è proprio di 31 anni, 32 anni, è un genietto che si è formato in Bolivia, si è formato nella corte di Diego Morales e ha fatto una tesi di dottorato proprio in Bolivia e ha partecipato alla stesura della Costituzione della Bolivia, che è una delle costituzioni più avanzate, cioè mette come primo punto l'indigenismo, le questioni di partecipazione e democrazia diretta, che fa capire come un elemento molto interessante. Mentre da noi le nostre costituzioni vengono ormai fascicliate, invece erano prese prima come modello delle costituzioni europee, vengono manomesse, basta vedere come hanno introdotto il pareggio di bilancio in Costituzione, la modifica dell'articolo 81 senza colpo ferire e nel silenzio mediatico generale, totale. Quindi mentre vengono manomesse, da questo punto di vista vi consiglio faccio pubblicità a un mio amico collega, il libro di Jacquet, che è molto bello, è un libro in cui dimostra come le costituzioni, la costituzione italiana su alcuni punti di vista sia incompatibile quasi con la costituzione europea, cioè come la costituzione italiana è molto più avanzata. Basta considerare il diritto di sciopero individuale, l'antifascismo, ci sono una serie di questioni che nella Costituzione europea non ci sono. E quindi come in realtà la Costituzione italiana è molto più avanzata su molti punti rispetto alla Costituzione europea, ma comunque da un discorso di base, mentre in Europa vengono manomesse, attenzione che invece in America Latina negli ultimi anni sono prodotte delle costruzioni estremamente avanzate sul terreno sociale, di diritti, di dignità, di partecipazione, democrazia, anche molto innovative. Scusa, il libro che ci vuoi consigliare? Se non mi ricordo il titolo, il libro di Jacquet, uscì adesso, uscirà da un mese. Costituzione e trattati europei. Costituzione e trattati europei. Tu l'hai letto? Sì, molto, bellissimo. Molto bello. E di Vladimiro Jacquet. E lui quindi ha partecipato, si è formato dopo nella corte di Morales, come si sono formati molti altri dirigenti di Podemos, lo stesso Iglesias, lo stesso Monedero, hanno collaborato con il Venezuela di Chavez, c'è cioè chi si è formato come Urban, si è formato nell'Ecuador di Correa, quindi si formano nel cosiddetto giro alla schierda e spostano quel tipo anche di populismo. Cioè Podemos non nasconde di rifarsi al populismo latinoamericano, che è quello che ha dietro come padre teorico il post-marxista, il filosofo post-marxista Laclau, è quello che appunto ha teorizzato il superamento delle classi come l'hanno conosciuto al Novecento, del teorico del 99,1%. È quello che teorizza in questa fase l'idea di e polverizzazione del ceto medio e di provare a costruire l'idea di maggioranza sociale. E è quello che dice io per queste tesi devo riprendere anche Lenin, e soprattutto un testo di Lenin, quello del settarismo malattia senile del comunismo. Dice dobbiamo rompere anche con il settarismo e provare ad aprire, a ragionare in un'ottica di cittadini, dice la Claudia, il latinamente, loro riprendono molto questo modello. Succede che inizialmente nella classe dirigente di partenza il braccio destro di Pablo Iglesias, che è il vero frontman. Pablo Iglesias aveva anche una tradizione di studi legata all'Italian Theory. All'Italian Theory, diciamo. Ah, certo. Cioè, tra l'altro, no? Però, a parte diciamo il ruolo di Iglesias, che è proprio il padre fondatore, c'era Monedero, che era il suo braccio destro. Nel momento in cui Podemos ha avuto il grande boom e i media hanno deciso di attaccare in maniera sistematica Podemos, essendo una forza antisistema e da questo punto di vista chiaramente il sistema si è arroccato e attaccato pesantemente, gli hanno scovato una piccola furberia che aveva fatto Monedero a livello diciamo fiscale, e prendendo una vecchia consulenza che aveva fatto per il governo di Chavez, l'aveva praticamente scaricata come se fosse un lavoro dell'azienda e non un lavoro suo personale come consulente, perché ovviamente in Spagna c'è tutto il meccanismo di fiscalizzazione per le imprese, quindi insomma ha fatto una furberia per pagare meno tasse. E è andato un polverone incredibile, in realtà veramente era una piccola veramente furberia, ha fatto sì che alla fine Iglesias ha consigliato a Monedero di fare un passo indietro, che tanto adesso non è quasi sparito diciamo dai vertici di Podemos, diventando un semplice militante, ed era una grande testa Monedero invece, una grandissima testa, proprio un altro fondatore teorico proprio del progetto di Podemos, ha fatto un passo indietro e il posto di Monedero l'ha preso di Guerrecon, che prima si occupava della comunicazione, era responsabile di comunicazione, questo ragazzetto, che è quello diciamo più appassionato agli studi di Lacrau e del Latin America. È uscito adesso un libro molto bello che vi consiglio, in spagnolo, in italiano ancora non è uscito, che si chiama Costruire il Pueblo, Costruire il Popolo, che è proprio il discorso di organizzare il 99%. Costruire il Popolo, uscito 3 mesi fa, e, scritto da Edwin Conde insieme alla MUF. La MUF è la moglie storica di Lacrau, e quindi una volta che è morto Ernesto Lacrau è rimasta la teorica del suo pensiero del 99%. Ed è un libro molto molto bello per capire anche la svolta, diciamo, di Podemos, e quell'idea di provare a ottenere consenso al di fuori anche dei recinti della sinistra classica. Questo, diciamo, è il pensiero che sta alla base di Guerre Con, almeno nel libro. Cioè l'idea del pueblo si costruisce partendo dagli emarginati, cioè partendo da tutte quelle persone, parlavamo prima dell'altissimo tasso di astensionismo, partiamo da coloro che non si sentono più rappresentati, cioè provare a organizzare tutta quel grido proprio di disperazione, ma disperazione nel senso di persone che non si sentono più rappresentate sul terreno politico, sindacale, sociale. E qui c'è tutta questa idea di organizzazione della maggioranza, della maggioria sociale, cioè come si costruisce il pueblo, come si costruisce il popolo. E quindi adesso Inigo Errekon è il braccio destro, è diventato il braccio destro di Pablo Iglesias. Attenzione, un altro elemento, ritorniamo al libro, un altro elemento molto... Ma scusa, che differenze teoriche c'erano tra Monedero e Errekon? Monedero ha una tradizione legata alla sinistra classica. Nel senso, Inigo Errekon, infatti, viene molto criticata anche ultimamente, anche a sinistra, ha fatto molti dibattiti. Podemos ha avuto un po' una svolta negli ultimi mesi. Monedero comunque è un uomo di sinistra, si è formato conoscendo bene i testi sacri ed è comunque un certo, diciamo, di formazione che faccio esempio pratico. Monedero era per l'accordo con l'Izquierda Unita. Cioè diceva, va bene sì che Podemos non può rimanere, deve andare oltre il destra e il sinistra, cioè tutta l'impostazione teorica è d'accordo, però a un certo punto dobbiamo legarci a Izquierda Unita in questa fase, perché noi comunque abbiamo un programma comune con Izquierda Unita, dobbiamo relazionarci di più con i movimenti sociali, dobbiamo strutturarci di più. Iglesias ha preferito invece il discorso di... Mettiamo il discorso di Iglesias che Izquierda Unita ha governato col Partito Socialista. Sì, non è in alcune zone, non in nazionale. In nazionale no. E Iñigo Errekon è per un partito più leggero. Cioè, Iñigo Errekon è quello che ha autorizzato fin dall'inizio l'utilizzo della rete. La rete è fondamentale. E soprattutto, e qui arriviamo appunto a un tema base che ritorna anche nel libro di Pablo Iglesias, che è quello del lavoro sociale. Nel senso, per capire lo sviluppo di Podemos è ovvio che dobbiamo studiare Indignados, però io vorrei far ragionare Iglesias, far ragionare su un punto. Quando gli Indignados hanno scosso la Spagna, sono scesi in piazza, nella fase apice hanno fatto un partito che si è approvato da uno a presentarsi e quel partito ha preso il 2%. Non ha funzionato quel meccanismo di autorappresentanza. Podemos in realtà nasce due anni dopo la fase di espansione, perché loro si rifanno, si rendono conto che c'è un vuoto politico e soprattutto non è stato gestito grido, nessuno è riuscito a rappresentarlo. E qui loro partono sempre, come dice, lo dice nel libro, noi partiamo sì che è dal lavoro sociale, ma noi partiamo sempre da un altro elemento, quello del consenso generale che hanno generato quelle lotte, cioè il meccanismo, questo molto zapatista, del conflitto e del consenso. Cioè, più che dalle piazze piene, a me mi interessa. interessa a livello strategico, Deus è estremamente pragmatica e strategica, dice Padre Iglesias, a me mi interessa un sondaggio che è uscito in quelle giornate che dice che il 67% della popolazione è favorevole alla mobilitazione. Quindi al di là della mobilitazione, mi interessa il dato, quel dato là, il 67% mi diceva che quando si creavano esperienze di democrazia dirette, le agorà, le appropriazioni, la maggioranza delle silenziose, questa maggioranza delle silenziose, il 67% era favorevole, e io volevo riferire a quella roba là. Allora, il discorso del Papo Demos che fa anche vivere donna, ma che Papo Demos e Iglesias anche nel libro ti dice, va bene, l'accumulazione sociale è fondamentale, noi dobbiamo partire dal basso. A me Siriza piace perché ha messo in piedi pratiche di mutualismo nel momento in cui la crisi mordeva, ha creato le reti di solidarietà dal basso, ha creato solidarietà for all. Ma se Podemos ha fatto il boom è perché a un certo punto noi abbiamo fatto, oltre all'attacco dal basso, abbiamo deciso di attaccare anche dall'alto, come sul terreno mediatico. Lui gli spiega quanto è servita la twerca, quindi l'ho parlato prima, sapete cos'è la twerca? Questa web TV. Creata sotto i tempi di Nados, in cui lui diventa di fatto prima conduttore, lui è giornalista, oltre ad essere professore della competenza, era conduttore di questa twerca, che ha avuto una visibilità tale che alla fine è stato invitato nei vari talk show. Lui andava a dire in realtà le ragioni delle piazze, ma si è fatto un terreno, e lì la commissione centrale di Iglesias spiega bene, il terreno gramsciano, è stato fatto un lavoro di egemonia culturale all'interno dei media. Loro hanno capito come per riuscire a sfondare dobbiamo utilizzare anche la televisione, che comunque era uno strumento che aiutava a raggiungere la gran parte della popolazione, o soprattutto le fasce più alte che magari hanno meno dimestichezza nell'utilizzo di internet, la rete, la web democracy. Allora dice, noi abbiamo utilizzato anche quel terreno, noi siamo riusciti a far passare una serie di passaggi teorici e politici per farci conoscere, ma soprattutto proprio di fare egemonia culturale grazie a uno strumento vecchio come la televisione, ma noi a livello strategico abbiamo fatto una roba tutta gramsciana. Qua nel libro c'è un passaggio molto interessante in cui ricita Gramsci, che dice che è il primo che ha teorizzato come il terreno culturale sia fondamentale e almeno quanto quello dello sfruttamento tra classi, cioè oltre a quello del meccanismo dei mezzi di produzione ci dobbiamo intervenire anche sul terreno culturale, e noi lo facciamo, cioè noi su questo sono una forza estremamente gramsciana, estremamente, ma lo dice in questo libro è teorico, cioè spiega proprio queste cose che sto dicendo, cioè come è nata Podemos a livello teorico, politico, analitico, cioè l'analisi, cioè non è che non si parla di Nicole Conne, è molto più teorico da questo punto di vista. Spiega però appunto un passaggio in cui citano Gramsci e qui diciamo il passaggio di in televisione. Quando io sono andato a scrivere il libro su Podemos, l'altro, sono andato in Spagna più volte e Podemos ancora non ha fatto proprio il boom, mi dicevano, ma Podemos, perché lì veniva da sinistra, diceva, ma Podemos è il partito della televisione, per far capire proprio qual è l'accusa che veniva fatta a Podemos. Addirittura nella prima tornata elettorale alle elezioni europee, dove Podemos a sorpresa ha preso l'8%, hanno deciso di mettere la faccia, non il nome, la faccia di Pablo Iglesias, perché molta gente si presentava al seggio elettorale e chiedeva, io voglio votare il partito del coleta in spagnolo, vuol dire del colino, che appunto era il volto di Pablo Iglesias. Lui questo lo racconta nel libro e dice, noi siamo stati costretti, a me non piace, è una roba che io schifo, l'idea del partito personalistico, lideristico, una roba che schifosa. Però noi in quella fase abbiamo capito che quel passaggio era fondamentale, perché molta gente conosceva me, soprattutto i più anziani, conosceva me in quanto opinion maker che si presentava in televisione a raccontare le ragioni di Grillados, lui bravissimo, un grandissimo animale politico, e quindi si è piegato anche a una logica, a un livello proprio pragmatico, si è piegato a questa logica e ha messo il simbolo, la sua faccia, ovviamente, cosa che si è tolta subito dopo, cosa che non avverrà alle prossime elezioni, perché dopo si sono strutturati, hanno fatto un congresso vero che io ho visto in Spagna, con una maggioranza, una minoranza, e ancora adesso, diciamo, hanno una discussione molto interna, se ne discute poco, e non so se l'avete detto prima, affermatemi, anche sull'Europa in questo momento, c'è una grande discussione interna a Podemos. C'è tutta una minoranza, quella capeggiata da Pablo Echenique, quella che nel congresso era sul mando Podemos, quindi Pablo Echenique, Miguel Urban, Teresa Rodriguez, quella che si è candidata, che viene da anticapitalista, sì. Che viene da schieda anticapitalista, diciamo, quindi la corrente un po' più trotskista, che non ha apprezzato ad esempio questo tandem con Tsipras, cioè Iglesias lo accusa di aver accusa Iglesias di essersi esposto troppo sulle elezioni di Grecia, dicendo attenzione che quella roba ci può schiacciare, perché adesso Tsipras con la gabbia di memorandum sarà costretto ad approvare una serie di misure impopolari, e vediamo adesso i primi scioperi, quindi attenzione a legarci mani e piedi con il governo. È stato un buon errore. Io faccio il giornalista, io quindi tendo, non lo sai, valutazione voi, io provo a dare informazioni, provo a dare sempre i vari dibattiti che faccio, provo a dare chiavi di lettura, poi veramente ognuno esce a dibattiti il pensiero col pensiero suo vostro, quindi poi non lo so se ha fatto bene o male, quello andiamo a vedere. La c'è stata, accidenti. C'è stata, infatti, quello è stato oggettivo, Iglesias lui è convinto che in questa fase per Podemos bisognava legarsi a Syriza, perché comunque la battaglia europea, cioè la battaglia europea, cioè il discorso del partito di Wall Street è quello lì, cioè l'idea che c'è un'organizzazione internazionalista leninista che ha i suoi emissari, lui gli fa un discorso, si diverte da sovranità popolare, ti dice, cioè cosa succede in Portogallo è clamoroso, la motivazione di informarsi, a parte la Grecia che ha dimostrato come hanno dovuto annientare il popolo dell'Oki, quello che ha votato il 5 luglio per il 62% contro il memorandum, quindi a parte la trattativa in Grecia, cosa succede in Portogallo in queste ore è clamoroso, sono prima di tutto per non dare il mandato a un governo, cioè dicendo una coalizione di sinistra già pronta che ha la maggioranza, e Presidente Repubblica le sta provando tutto, poi ma il governo tecnico le stanno provando tutte, perché non vogliono un altro, diciamo, governo almeno a parole anti-austeri che mette in discussione, diciamo, i diktat dell'Europa. Allora dico, da una parte c'è il discorso della maniera popolare, nel senso che è clamoroso che la gente vota un governo e non viene rispettato il mandato popolare, la legittimità del popolo da questo punto di vista. Dall'altro, discorso degli emissari, la battaglia non può rimanere dentro i confini, perché è chiaro che abbiamo un meccanismo economico tale, perché ci sarà l'euro, cioè ci sarà un meccanismo tale che è ovvio che la discussione è tutta più in piano. In Italia l'abbiamo già visto col referendum sulla statura, no? Visto Certo. Tu hai vinto un referendum, poi dall'altro ti dicono che bisogna fare lo sblocca Italia, te lo dicono, guarda, mi spiace, ma facciamo finta di niente. Organizzazione, quindi tu mi devi fare lo sblocca Italia, e ora devi fare lo sblocca Italia. Cioè, il discorso è quello là. In un discorso tale in Europa, in cui lo dice Iglesias, ma lo dice anche, devo dire, Landini nella prefazione, il titolo dell'intervista che gli ho fatto, la socialdemocrazia è morta. Cioè la socialdemocrazia, quella che veniva rappresentata in questi ultimi 20 anni dal Partito Socialista Europeo, è totalmente morta ed è definitivamente morta nella trattativa che c'è stata tra Tsipras e l'Eurogruppo. Cioè nel momento in cui i partiti socialisti, Hollande in testa, ma non abbiamo avuto Renzi, hanno deciso di sposare il partito della Merkel, di Schäuble, cioè diciamo quella del pugno duro contro la Grecia, o tu accetti le nostre condizioni, o io ti chiudo i rubinetti, che per la Grecia significava default, bancarotta, zero liquidità, cioè si è trovato in una situazione difficile, non volevo stare nei suoi panni per la trattativa, e ha dimostrato il vero molto, cioè, e qui vi cito l'ultimo libro di Gallino che è bellissimo, il grande Gallino, negli dopo i gloriosi 30, cioè gli anni delle costruzioni welfare state, dei New Deal, delle politiche keynesiane in Europa, dei beverage, c'è stata una controffensiva neoliberale che di fatto ha vinto e ci ha distrutto, ci ha annientato. C'è il paradigma neoliberista, il paradigma dell'austerity, il paradigma del pensiero unico. Lui ci mette insieme appunto le politiche di liberalizzazione, prevenzioni, tagli, le varie riforme del mercato del lavoro, le collega alla riforma dell'università, cioè alla necessificazione dei saperi e quindi alla perdita del senso critico. C'è stata una controffensiva negli ultimi 30 anni che ci ha di fatto spazzati via, perché poi abbiamo avuto al governo, governava uno, governava l'altro, vedete che tutto torna al discorso dei fatti inglesi sull'alternanza in Spagna, governa uno, governa l'altro, le politiche più o meno, un po' più ammorbidite magari dai governi socialisti, ma il cel shadow è esattamente lo stesso, che ti dice anche Gallino negli ultimi 30 anni. E quindi ti dice, le socialdemocrazie si sono snaturate, totalmente snaturate. C'è un esempio classico su questo, anche scusate spazio un po', ma credo che sia bello. Se tutto si tenga insieme, è il discorso su cui nasce anche Siriza nel 2004, cioè in Grecia Papa Andreu padre negli anni 80 è quello che ha costruito il welfare state con il PASOK, che ha costruito il welfare state in Grecia. Poi nel 2000 il PASOK, che quindi era un partito abbastanza riformista, aveva gli operai che votavano in Grecia, votavano appunto le classi, diciamo, nostre industrie, diciamo, le classi deboli votavano nel partito socialista, i partiti non contavano quasi niente, dei partiti della sinistra radicale. Nel 2000 in poi il PASOK sposa la terza via Bellerianna. Tu c'hai proprio uno snaturamento del PASOK con il Papandreou figlio, che praticamente tradisce tutte le politiche promosse dal padre. Che allucinante, ti racconta in Grecia questa roba. Il padre era un grande, negli anni 80 io l'ho festeggiato in piazza. Nell'81 l'elezione a premier di Papandreou era il primo governo socialista dopo la caduta dei dittatori Belli. Era un passaggio storico la vittoria di Papandreou nell'81. Il figlio ha tradito totalmente e ha azzerato le politiche facendo cosa? Facendole, ma in realtà che poi le politiche minimi sono le stesse, cioè le riforme che vengono dettate dall'alto tengono sempre a colpire. Allora, snellimento del settore pubblico, le privatizzazioni, tagli al welfare, il potere licenziare, quindi libera. È lo stesso percorso che ha fatto la sinistra, passando dal PC ai DS più o meno, no? Cioè dei governi di sinistra. Quello l'ha fatto negli anni negli anni 90, la Bolognina. E così via, certo, no, Renzi, io credo che Renzi abbia fatto un'accelerazione, nel senso che. No, un'accelerazione però. Cioè Renzi ha proprio un'altra cultura politica. Renzi, cioè, pensiamo che il decreto Treu è quello che comincia la precarizzazione del lavoro. No, fatto d'accordo. Infatti, lì è il passaggio del Bleriano. Cioè, infatti anche Veltroni, c'è anche non solo Renzi, c'è anche prima il DS non ha abbracciato le politiche bleriane. Diciamo che Renzi, non facciamo prigionieri. Ha avuto proprio un'accelerazione, nel senso, ha proprio chiuso, cioè lui viene dalla BC, lui ha una cultura da Boy Scout, cristiana, ha proprio la cultura del PC, cioè proprio viene da un'altra. Non è Bersani, cioè per quanto Bersani lo possa criticare, no, Bersani viene dalla organizzazione, pure Bersani. No, però puoi criticare, nel senso viene appunto una roba, però ti dico, Renzi è proprio un passaggio in più, ancora peggiorativo per, dal mio punto di vista. Cioè Renzi proprio. Anche dal nostro. Cioè Renzi proprio non c'entra più niente, ma quello che pure postcomunista. Cioè proprio viene votato. Cioè, democristiano! Viene da un altro. Cioè, ha chiuso totalmente con quella storia. Con quella storia. E quindi diciamo che assistiamo in questa fase alla morte totale della socialdemocrazia. Allora. E anche quindi del ruolo dei partiti satelliti della socialdemocrazia. Ti dico infatti, ti leggo, guarda, su questo esco da Iglesias stamattina con un passaggio dell'intervista a Landini, che è molto molto interessante, te lo leggo. Allora, io gli chiedo, in Italia non ne parli di ragione sempre ideologica a sinistra del PD, quindi una logica un po' politicista da questo punto di vista? E lui risponde, assolutamente. Da noi la sinistra ha perso culturalmente, veniamo da 20 anni di antiberlusconismo, dove l'opposizione giudiziaria ha prevalso su quella sociale, e ora Renzi sta avendo gioco facile nel passeggiare sulle macerie della politica. La necessità di lavorare sul terreno dell'alterità nasce dal bisogno di riunire ciò che negli anni è stato separato. Questo è sinistra, ma anche socialmente, da qui l'idea di coalizione sociale. Non è sufficiente ipotizzare un soggetto a sinistra della socialdemocrazia, anche perché essa, per come l'abbiamo conosciuta, è morta. Devi affermare un punto di vista egemonico, questo c'è poco. Devi affermare un punto di vista egemonico della società, rifiutando progetti minoritari e marginali. L'obiettivo del governo deve essere percepito come strumento per permettere alle persone di essere protagoniste della propria vita. Bisogna superare la logica politicista, nel senso che di che mossa faccio, che alleanza faccio, a prescindere da comportamenti, contenuti e necessità di cambiamento. Oggi, se vuoi affermare dei valori diversi, devi puntare a essere maggioranza. Cioè Landini sposa in pieno il discorso che fa Iglesias articolata nel libro, in un'ottica non solo nazionale ma continentale. La costruzione d'Europa sociale e solidale diventa il banco di prova. Di fronte a un processo globale è folle ipotizzare una soluzione nazionalista e sovranista o accettare i vincoli della finanza. Il fallimento della terza via bleriana ha dimostrato l'esistenza del liberismo temperato. Lo devi evitare in toto quel campo, altrimenti trionfa il modello degli Stati Uniti, dove il sindacato è impossibilità da scioperare contro le politiche del governo. Sa totalmente i corpi intermedi, aggiungo io che è quello che vuole teorizzare Renzi. Cioè, esatto. Saltano i governi intermedi, saltano totalmente i corpi intermedi. Io posso dire un bicchiere d'acqua? Sì. Posso dire, cioè, la secca, no, e poi facciamo qualche domanda, se no veramente, quante volte che parli, attacco un pipposo, ce lo finisce io. Io volevo fare una considerazione. Meglio un bicchiere di vino, volendo. Adesso acqua. Una secca. No, parlato quanto ho fatto? 20 minuti, mezz'ora. Il blocco sociale di riferimento del vecchio Partito Comunista, che inizialmente, storicamente, partiva dagli operai, precari, dal proletariato, eccetera. Nell'evoluzione della società, con la sindacalizzazione, con l'estensione dello Stato sociale, non per tutti, questo va detto, si è trasformato piano piano in un blocco sociale dei sindacalizzati garantiti, non solo di aristocrazia operaia, cioè di quelli che entravano alla Fiat e erano sicuri che con la Fiat ci andavano a pensione e riuscivano a tirare dentro dei figli, ma di tutta un'altra serie di settori del terziario, non soltanto dell'industria primaria, che erano super garantiti e diciamo che attingevano su tutta una serie di privilegi, andavano a attingere su un disavanzo pubblico che si poteva ampliare all'infinito, e mi riferisco sia a tutti quelli che lavoravano nei servizi che nelle amministrazioni pubbliche che tutte queste cose qua. Allora, perché dico questo? Perché in definitiva è vero che piano piano sono cambiate le politiche del PC e poi c'è stata la trasformazione in tutte le varie sigle che sono venute dietro, ma prima ancora di questa cosa qui c'è stata un'evoluzione, una trasformazione del blocco sociale del riferimento. Questa qui è una cosa che non è stata una politica decisa soltanto in Italia. L'Italia era un paese di frontiera per quello che riguardava la guerra fredda. L'Italia era quella che ci aveva il Partito Comunista legato a Mosca, più grosso dei paesi occidentali, per cui questo qui, diciamo, era fonte di preoccupazione dell'America, dell'Inghilterra, di tutti quelli che ci avevano e un interesse nello scacchiere geopolitico mondiale e un interesse specifico nel Mediterraneo per quello che riguardava le rotte del petrolio, eccetera. Per cui ci si è lavorato abbastanza, si è lasciato sguazzare, oltre che si è lavorato su tutte le forme del controllo dell'informazione, della propaganda, eccetera, ma si è lavorato anche a livello sociale, cioè paradossalmente si è elargito benessere artificiale per imborghesire determinati settori che hanno perso totalmente quella che era la loro vecchia identità dei proletari, che non c'avevano nient'altro da perdere che le loro carene. Poi quello che c'avevano da perdere era la prima, la seconda casa, la pensione garantita, sempre spiccioli rispetto a quell'1% che c'aveva tutto il mondo, ma questo qui ha comunque trasformato le mentalità dell'enorme settore. Per cui c'è stata prima questa degenerazione delle socialdemocrazie e poi il cappello finale, una volta che si è smantellato tutto, sì, l'ha messo Renzi, che non è che nasce lì per caso, cioè secondo me Renzi è un anglofono che comunque porta avanti determinate politiche delle banche, cioè non è che risponda a qualche gruppo sociale specifico. Renzi è la continuazione perfetta della politica dei voti, magari non è andato mai alla riunione del Bilderberg, ma le indicazioni da lì le prende, insomma. È più pericoloso. È ancora c'è. No, perché c'è quel troppo populista, c'è molta ambiguità, magari fosse come Monti si capisce cosa rappresenta. Infatti era a capo di governo tecnico, nel senso che il ruolo di Renzi è per noi, diciamo, tra l'altro c'è anche il silenzio della CGIL nazionale che non c'era sotto Berlusconi. Questa è un'altra questione, nel senso che quello è il silenzio a CGIL che c'è in generale quando ci sono i governi centrosinistra, nel senso che c'è un livello di notare che quando ci sta il governo centrosinistra tende a tirare il freno a mano. Se uno pensa che adesso la Camusso, pure quando critica Renzi, ma poi lo stesso meccanismo, la CGIL è il più grosso bacino elettorale del, cioè comunque l'80% della CGIL porta voti al PD, che è il partito di Renzi, già capisci che c'è un meccanismo di cane che si morde la coda, o quanto, diciamo, non ce ne voglia mai essere il desiderio di rottura frontale con appunto il PD e quindi anche con Renzi. Ma la questione qual è? È che Renzi veramente ha terreno facile, perché è riuscito con il suo populismo, perché in Italia purtroppo abbiamo la fase del populismo, ma non il populismo quello migliore, cioè, a noi ci manca il populismo, diciamo, latinoamericano non lo conosciamo, cioè quello che ha provato, che Podemos ha in qualche modo ha studiato e però ha provato a riprodurre in America, in Spagna. Noi ci manca quel tipo di populismo, ma ci abbiamo il populismo alla Renzi, che è uno che ti venderebbe il mastro della politica, cioè uno che ti è capace di vendere credo qualsiasi cosa, rappresenta benissimo la generazione di chi studia la Lumis, per dirti, quindi il giovane in carriera, brillante, la questione della meritocrazia, ti dice una roba di sinistra, di unito è Nelson Mandela, nello stesso momento negli Stati dell'Europa e quindi fa il Jobs Act, soprattutto ti attacca. Lì è la sua grande capacità, lui riesce a attaccare i corpi intermedi facendo anche giusto appunto, che lì fa la CGIL, lui strumentalizza come sa che la CGIL sta in crisi, attacca la CGIL, ma non per fare la cittadinanza e qui attacca la CGIL per ritornare, diciamo, sul terreno dei diritti dei lavoratori, ma li attacca la CGIL per partecipare all'articolo 18, cioè e annientare i corpi intermedi, è un populismo intelligentissimo, populismo di destra, un populismo intelligentissimo perché fa leva sul malessere della popolazione con conti al sindacato, che è oggettiva. Lui perché attacca... comunque il sindacato è, diciamo, è comunque degradato, cioè non è che... Chiaro, ma ti faccio anche un altro esempio, il settore pubblico. Cioè io ti faccio dei tagli draconiani nel settore pubblico o ti metto i meccanismi di sorveglianza sul lavoro facendo leva su cosa? Si fanno loro, perché il senso comune è che nel settore pubblico non si lavora, c'è cioè quelli che timbrano e poi non si presentano, il vigile che in Liguria si presenta in pigiama, in mutande a timbrare, quindi fa leva sui fannulloni per farti poi una riforma su quella della Madia che insomma, è una roba di si fa tornare indietro a prestito dei lavoratori, cioè la roba della Madia è massacrante, di massacra. Tutto, tra l'altro c'è da notare che tutta campagna comunicativa, questo cioè vuol dire loro chiaramente che fanno, prendono degli aspetti deteriori che comunque ci sono, cioè non si può dubitare, e li usano come clava per distruggere i diritti di tutti. Quello che sto dicendo, cioè l'esempio della CGL fanno loro, sono questi esempi qua, sono dati oggettivi, ci sono dei problemi, c'è la CGL che non riesce più a rappresentare. Il problema c'è da dire, no? È che purtroppo, questo è un problema comunque della sinistra italiana. La sinistra italiana ha ritardato, anzi non l'ha mai fatto, e in particolare il sindacato, a dire da una parte ci stanno i lavoratori che fanno il proprio dolore, e dall'altra parte ci stanno i pannolloni, i banditi che noi non dovremmo difendere, no? Cioè è proprio perché non c'è stata questa separazione che c'è la possibilità, no, diciamo, di mettere in moto questi ricatti, cioè questa è la realtà. Sono d'accordissimo, Podemos è tornando alla Spagna al Corano di Esatto. Nel senso che Podemos, io lo dico sempre, io facendo l'ultimo anno e mezzo ho fatto una roba con un'ottantina di dibattiti, l'ultimo anno e mezzo ho girato l'Italia, cioè devo dire che per fortuna i libri sono andati bene, sia Tsipras-Ki, quello che è poi il primo libro su Tsipras-Ki, perché non conosceva veramente quasi nessuno, che è il primo libro sulla Grecia, poi Podemos e adesso vanno bene. E però quando vado a presentare il libro, ho presentato il libro di Tsipras prima che andasse al governo, quindi prima ci fosse la questione memorandum, quindi fase la Siriza di lotta, di opposizione, in realtà non nascevano molte discussioni, o almeno la gente che veniva a ascoltare i dibattiti non rimaneva spiazzata. E diceva Siriza ci piace, nasce appunto per porre fine alla frammentazione della sinistra, le parti di mutualismo, ha rotto quel bipolarismo storico che stava in Grecia, PASOK e la democrazia, il partito sociale, quindi stava in piazza dei movimenti, ha cavalcato quelle mobilitazioni che abbiamo visto a pezzi di sintagma in questi ultimi 5 anni. Che sono peraltro tentativi che ha già fatto, ha tentato di fare rifondazione, no? Per la depressione sociale, insomma. Però quando andavo a presentare il libro di Siriza, che stava in platea, faceva domande, ma era abbastanza convinto. Podemos è un partito invece che nelle varie presentazioni fa nascere molti dibattiti, perché è un dato fatto. Noi ci rifacciamo alla tradizione eurocomunista, europea, veniamo al PC, Berlinguer, cioè veniamo, poi chi più chi meno, perché chi ha una tradizione più post-operaista, però diciamo che veniamo da un tipo di formazione, imprinting. Podemos viene, abbiamo visto da un altro imprinting, ma viene quindi una formazione sul populismo latinoamericano, e soprattutto ha il coraggio di rompere proprio con una serie di passaggi classici, anche un po' di pensieri della sinistra tradizionale novecentesca. Prima citavo l'esempio, la frase storica che dice sempre Iglesias: dovremmo rompere con per vincere dobbiamo evitare di fare tutto quello che ha fatto la sinistra classica, che è il motivo per cui Podemos ad esempio sta nel bue, cioè la sinistra rosso verde in europea, e quindi in alleanza con Siglas, con Sinn Féin in Irlanda, con blocchi di schierda se consigliamo il Portogallo, ma non sta Podemos dentro la sinistra europea, dove invece Tsipras si inizia ci sta. anzi è il capo, sì, la sinistra europea, non ci sta, perché l'idea di sinistra europea va contro il concetto di Podemos. Sinistra europea tende a unire i partiti di sinistra. Podemos dice che, una, che lui non vuole recinti, che lui invece vuole provare a fare una roba che va anche al di fuori dei recinti della sinistra, e quindi è una roba in cui io mi definisco di destra e di sinistra e non mi interessa, diciamo, stare dentro, la, dentro la, il gruppo della sinistra europea. Questa è sempre una differenza classica, e quindi Podemos su molte cose rompe e ha il coraggio di dire delle cose che la sinistra classica spagnola non ha il coraggio di dire. Quando nasce Podemos, già c'è un partito sinistra in Spagna e prende pure il 7-8%. Questa è la cosa incredibile. Non è che Podemos nasce sulle macerie della sinistra spagnola, perché il Izquierda Unida è un partito che proprio prima che nascesse Podemos, nel sondaggio stava quasi all'8, le elezioni ha preso il 6,5. Quindi insomma era un partito forte, anche strutturato. Cioè, Izquierda Unida è anche un partito che i suoi militanti le sono basi. Questo è un terreno molto interessante da capire. Nasce perché Podemos si rende conto che c'è tutta una gran fascia della popolazione, soprattutto, un discorso molto generazionale, soprattutto quella dei giovani, universitari, gli under 30, dove Podemos nei sondaggi sta tipo al 40%. Sotto gli under 30 potremmo stare al 40%, che non c'è un dato di, cioè parte un dato di crisi da rappresentanza, ne parlavo prima, questo è in Spagna ma che è anche in Italia, che è fondamentale, e si rende conto che sì che attacco anche il sindacato classico, perché il sindacato classico non riesce più a rappresentare i cosiddetti nuovi poveri, questi dati alla mano. E mi ci metto pure in mezzo. Non rappresentano anche gli stessi lavoratori che sono già strutturati in alcuni servizi di lavoro, perché se proprio se questo non c'è più il sindacato, appunto, no? Ti difende te lo scritto, ma su cose piccole, minime, e certe volte sono dei favori che vengono fatti di scritto. Cioè non c'è la lotta vera e propria. Cioè, lo stai dicendo a me che sto, lo dico così, ci sto lavorando, quindi immagineremo un appuntamento non anno, appuntamento, ma sto scrivendo, sto provando a scrivere, c'è cioè uno studio, scrivere un libro sul problema della crisi della rappresentanza sul mondo del lavoro. Cioè provare a passare dalla questione dei partiti che non rappresentavano all'idea proprio del sindacato. Cioè io sono attivista. Ti chiede il diritto, ti chiede il favore, e tu c'hai la crisi tua. E a questo punto dice, spieghiamo proprio, non fa per più fare questo tipo di sindacato. Cioè tu da sindacalista non ti riesci a chiedere il diritto al sindacato, ma è il favore. Poi magari ci vanno questo specifico. E questa è una cosa bella. C'è un altro meccanismo che spesso e volentieri l'unico obiettivo è che sta roba delle tessere è una roba incredibile e diventa un di fatto una sorta di patronati, esatto. Io ti do il servizio, ti faccio fare il calcolo di sé, ma solo se fosse un capo, ma tu sei qua. Ti faccio un altro esempio, proprio leggevo attacco una roba sull'Espresso che mi ha fatto un cazzato, scusate il termine, la morire. La CGIL decide di intervenire anche sul mondo dei freelance, delle partite IVA. Apre il primo co-working, ci saria dopo 10 anni. Dopo 10 anni. Visto, no? La CGIL scopre che... Ma io vi interrompo, perché sennò sto qui per far mangiare voi la discussione vostra fino a stasera. Hai ragione, ma andiamo. Dopo ti continuate, prima ai 4, ai 5, io forse poi c'è. Quindi intanto mangiare. Sì, sì, confidiamo, hai ragione. No, allora posso, ok, se siamo d'accordo. Siccome già pronto, ma che tanto nel mezzo si sarà spiegata. Quindi se volete facciamo 5, sì, ci chiudiamo il... No, no. intanto apparecchiate, no, così va. Già, te fanno per ricordare. No, no, io faccio, io se no io non posso stare qua dove finisce 5 minuti. 5 minuti, ma detta l'una e mezza. E lo so, e siamo fatti bene. No, io me ne vado. Ciao! No, dai, dai, arriviamo, arriviamo. No, arriviamo. Va bene, va bene. Intanto apparecchiamo. Allora, io faccio le cocumelle e mi metto lì sole. Bravo. No, scusate, io... No, perché io poi mangio un boccone con la bambina e poi vado a casa, che ho certo. Dopo non posso continuare, sarei rimasto. No, no, va per weekend. E... Sadly. Penso... Ah, vabbè, raccontavo questa roba del co-working, quindi l'intervento della CGL sul mondo delle partite IVA, apriamo il co-working. Vedete, a pagamento, cioè per quasi il prezzo di mercato, soltanto il 20% in meno, e poi spiega tutto il meccanismo, dice no, cioè tutto, ci serve perché ti ho fatto una serie di tessere, perché è obbligatorio quindi farsi la testa. Certo. È un modo di ragionare, tu ci hanno fatto dei partiti più dove sentissi, è un modo di ragionare, che a parte per me non funziona più, a parte il mio pensiero da giornalista, diciamo, elettore di sinistra. Ma diciamo Podemos, torniamo al tema del giorno, romperlo a mente. Cioè sta roba non funziona. Cioè Podemos ha messo le tessere dopo un anno che era già esisteva e dopo un anno che si è già presentato europeo quando ha fatto il congresso. Ha fatto delle teste, ma poi c'è tutto il meccanismo, diciamo, della rete, del crowdfunding. Cioè, tutto diverso. Un meccanismo crowdfunding per proposta. Noi avremmo ragionato come il meccanismo nasce, vai sul congresso, c'erano fare la conferenza stampa, ma sono 2000 persone, ma tu sei messo là a fare le tessere. Quelli capito, quelli fanno la prima tessera a ottobre, quando fanno il congresso fondativo, quando nascono a gennaio, quindi fanno la prima tessera. Sì, capito. Dopo 9 mesi, per 9 mesi sono un movimento, non sono un partito. Rifiuto quella logica là, è un modo di ragionare, cioè Podemos, fatevi capire su molte, poi ragioneremo poi su come andrà questa elezione, ma è chiuso su questo, su come andrà l'elezione, chiudo veramente. Però lui ha il coraggio di chiudere su alcune questioni sul terreno dell'innovazione ed è un po' anche aria fresca, io sono un po' un nuovista su molte cose, per me era giusto rompere sul 900 delle tradizioni. E io infatti mi diverto, poi io sono molto confrontato col pubblico, io mi diverto qui alle presentazioni su Podemos, molta gente rosica pure, ma preferisco confrontare quei dibattiti su Podemos che rispetto a un dibattito su Syriza dove più o meno tutti d'accordo. Su come andrà a finire, e poi veramente chiudo, e poi vi invito a. Cioè, qui ho portato 6, ho solo 6 copie del libro e ho solo 6 a casa. Con lo sconto a 10 euro. E come andrà Podemos? Per me Podemos non andrà bene, nel senso rispetto alle previsioni, alle previsioni che doveva andare al governo, non andrà bene. Non andrà bene per una serie di motivi, perché ha avuto un sistema appunto, soprattutto mediatico, pazzesco, massacrato. Cioè ogni piccola cosa, errore, gaffe di un qualsiasi militante di Podemos diventava l'apertura di qualsiasi giornale. Però cioè, in Italia è successo uguale, la Francia si è attaccato a tutto il potere che esiste. È locale. E ora, hanno fatto la luce stelle. Per ora è locale. Lo dico perché noi siamo con i Francia, siamo nati da sempre, tra le alleati. E poi difeso dalla gente, perché lui esce sul piazza, esce dalla gente. Cosa hanno fatto nessuno? Poi stavamo a parlare di stamattina, lo ricordo più di un posto così, c'è la via fuori per entrare. Allora, io sono messo d'accordo, c'ho anche un giudizio positivo, lo conosco bene, cioè l'ho pensato più volte, dei magisti se c'ho un giudizio positivo, però appunto io la dinamica più locale, ero nazionale per un partito che si sta affermando, un partito non strutturato, poi gli hanno fatto subito Ciudadanos. Che si sta strutturando, c'è stato come primo elemento, quindi i media che ti hanno distrutto e poi ovviamente non distrutture, all'improvviso devi gestire un tale consenso. È normale che non riesci a gestire tutti i processi, i litigi interni sull'Europa, le spaccature. Cioè, è anche vero che come è facile che tu ti pompi, è anche difficile poi se non ti strutturi bene, perché questa è la fase di Podemos, la fase della strutturazione, era normale che qualche intoppo endemico proprio alla creazione normale. Quindi è la famosa crisi di crescita. La crisi di crescita, un sistema che ti ha maciullato e ha teso a sottolineare qualsiasi tipo tua di divisione e spaccature, e poi c'è un terzo fattore che è fondamentale, che è quella del sistema che ha creato la forza populista speculare a destra come antidoto a Podemos, che è Ciudadanos. Sì. Cioè hanno creato tavolino un soggetto che già esisteva ma l'hanno mutato grazie a un bravissimo leader che si chiama Albert Rivera, un trasfugo del Partito Popolare, che è uno esattamente speculare a Podemos, nel senso che è la destra moderna, è la destra post-novecentesca. Cioè una destra, quindi proviamo tutto pro austerity, è l'uomo delle imprese, ma molto pulito, è molto simile. Io faccio un esempio per far capire a Roma. Marchini è esattamente che potrebbe essere candidato Marchini del PD, del centro che si prende i voti, sia di quelli un po' sinistro, cioè si prende una roba uguale, un uomo per tutta la stagione, un uomo dei poteri forti, perché lui attacca estremamente avanzato due diritti civili, attacca a testa bassa la corruzione e ha uno stile di vita molto umile, gira in moto, è piacione. Quindi l'esempio di Giuseppe è proprio per me. Cioè Marchini ha uno stile di vita umile? No, Rivera! Rivera! Parlavo di Rivera, ma la differenza è che Rivera. No, è la faccia così. La differenza è che Rivera ha piacione. Marchini, guarda, è piacione. È piacione del. Facile, simpatico. Quindi io credo che Podemos, rispetto a me, io ho tempo che si attesterai a 13-15%, una roba che comunque diventa 50%. Ma secondo te, per esempio, le liste Sono un vantaggio o uno svantaggio? Vantaggio.